Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. La trave elettronica nell'occhio dell'oliva, ne parleremo la settimana prossima, perché non abbiamo, ci siamo mangiati tutto il tempo, anzi l'ho mangiato io tutto il tempo. Grazie a tutti quanti per la cortese attenzione e grazie a Cristiano Valli per la regia. Alla settimana prossima l'appuntamento rimane confermato alla medesima ora. Nel frattempo ricordatevi che i nostri testi si trovano nel sito internet di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. Cliccate su le trasmissioni e poi sulla caccia.